State ascoltando Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Sì. No, io 10-15 anni fa la mia attività era di predicare in scuole, in centri culturali. Incontravo spesso persone che mi contestavano l'autenticità dei Veda, dicendo che i Veda non erano in realtà scritture indiane, ma provenivano da altre culture, no? Ora, per noi devoti di Krishna, che crediamo che i Veda dicano la verità, i Veda dicono che sono stati compilati in India, per noi è importante stabilire l'autenticità di quello, perché noi ne stiamo facendo la base della nostra vita. E allora, per controbattere a questa teoria, ho scritto questo libricino e oggi sono stato invitato a parlare un po' in questo posto. Questa teoria dice che circa 3.000 anni fa una popolazione del nord dell'Asia si è venuta giù in India con i carri da guerra, oltrepassando montagne di 5-6 mila metri alte, come avranno fatto, Dio solo lo sa, a portare 5.000 carri da guerra, 10.000 carri da guerra in cima alle montagne innevate himalayane. Sono arrivati in India, hanno conquistato, non hanno scritto niente delle loro gesta. Normalmente chi conquista, la prima cosa che fa è scrivere la propria gesta, no? Io sono partito da lì e sono arrivato, ho fatto questo, ho fatto quello. Non esiste nessun documento che racconti questo avvenimento. In India questa invasione degli ariani viene studiata nelle università, e tutti i vari movimenti nazionalistici indiani cercano di combattere e di far emendare i libri, far cacciare fuori dai testi scolastici questa teoria. Noi abbiamo dato un piccolo contributo a dimostrare che l'invasione degli ariani in India non è mai successa. I Veda dicono la verità, se dicono che un fiume scorreva lì, scorreva lì, se dicono che la città che non c'è più una volta stava là, vuol dire che stava là. I Veda sono testi che provengono da Dio, sono testi divini, dicono la verità, Dio non ha tempo da perdere a dire bugie. E poi un po' gli scienziati atei materialisti hanno un po' questo vizio di denigrare un po' tutti i testi religiosi, non soltanto i Veda, anche la Bibbia, no? Dove quando si dice che l'arca di Noè, io so che mi hanno detto, non ho approfondito, mi hanno detto che nella Bibbia c'è una descrizione piuttosto seria di dove l'arca di Noè sarebbe approdata in cima a un monte, Ararat mi sembra che si chiama, non mi ricordo, no? E che ovviamente questa teoria, perché proveniva dalla Bibbia, era stata tenuta, era stata, come si può dire? Il mio italiano è pessimo perché sono 6 anni che non parlo italiano, non mi vengono le parole in certi momenti. Era stata trascurata, era stata, come dire, no? Era stata non presa, non presa in seria considerazione, perché la religione normalmente tratta di, non so, di sentimenti, tratta di miti che hanno un'importanza, ma solamente per evocare qualcosa di religioso nel cuore, ma che non hanno nessuna valenza storica e scientifica. Invece noi diciamo il contrario. Le religioni sono testi scientifici, storici, che dicono la verità. Tanto che pare che abbiano ritrovato il luogo dove l'arca di Noè sia stata. Adesso non lo so, però. So comunque che per quanto ci riguarda, in India si susseguono anno dopo anno ritrovamenti che dimostrano che quello che i Veda dicono, che il Mahabharata dice, è corretto. I Veda sono testi che dicono non soltanto la verità su questioni spirituali, ma persino su cose storiche. Noi siamo i devoti di Krishna, coloro che rappresentano, studiano, praticano questa filosofia che si riferisce a questi testi. Però la Veda viene da Vid, dal sanscrito Vid, che significa conoscere. Il Veda significa conoscenza. Chi vuole vivere in maniera corretta deve conoscere, no? È come quando uno vuole andare in un posto, se uno vuole camminare deve conoscere la strada, se no va da un'altra parte. La conoscenza è utile per questa ragione, perché se noi sappiamo cosa siamo noi e come siamo fatti, allora è più facile sapere come dobbiamo vivere, no? Cioè, immaginiamo un folle in un manicomio che pensa di essere Napoleone, no? Cioè, lui siccome pensa di essere Napoleone, è ovvio che comincerà a dire agli altri: andiamo, conquistiamo, andiamo a Waterloo, vinceremo, no? No, andiamo. E chiaramente va a Waterloo, si prende un paio di ceffoni da qualcuno e lo rimandano al manicomio, giusto? Allora, se lui si domanda perché questo mi ha dato 2 ceffoni, per quale motivo ho avuto questa reazione, il motivo è che lui si è identificato in qualcuno che non è, la falsa identificazione. In sanscrito si chiama ahankara, la falsa identificazione. Allora la cosa più intelligente è prima capire chi siamo e poi cominciare a vivere. Se no cominciamo a vivere, non sappiamo chi siamo e prendiamo ceffoni in continuazione dalla vita. Allora i Veda ci raccontano alcune storie interessanti a riguardo di chi siamo realmente noi. E la prima cosa che ci dicono i Veda, in maniera particolare nella Bhagavad Gita, ci danno delle informazioni straordinarie, eccezionali, che uno se non ci ha pensato mai dice: accidenti, come mai non ci ho pensato prima. La Bhagavad Gita dice: tu quando la mattina ti alzi e ti metti davanti allo specchio e ti guardi allo specchio, vedi il tuo viso, no? Ecco, quello non sei tu. Accidenti, dice, e allora? Come non sono io? No, non sei tu. Quel viso, quel corpo che tu vedi allo specchio non sei tu. E allora chi sei? Allora la Bhagavad Gita spiega che noi siamo anime spirituali. Cioè il corpo, quello che vediamo allo specchio, chiedo scusa, dobbiamo fermarci 2 minuti, meno, spero, per cambiare la cassetta. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Hare Krishna, volevo passare qualche minuto insieme a voi per parlare della filosofia della coscienza di Krishna. Innanzitutto, cosa significa coscienza di Krishna? Coscienza di Krishna significa vivere secondo la piena consapevolezza e vivere in funzione della realizzazione del fatto ottenuto che noi siamo differenti da questo corpo materiale. Vivere quindi in maniera spirituale, vivere secondo come vivessimo se fossimo nel mondo spirituale con il nostro pieno corpo spirituale. Al momento presente la maggior parte della gente vive con il pensiero di essere un corpo, fa tutto secondo questo concetto, secondo questa convinzione. Io sono uomo e quindi devo fare le cose da uomo perché queste cose mi daranno soddisfazione. Chiaramente, insomma, se un uomo si comporta da uccello, da cane, da gatto, non può trovare piena soddisfazione perché sono due cose diverse. Dunque ognuno, pensando di essere qualcosa, vivrà in funzione di questa identificazione. Il devoto di Krishna è quello che vuole vivere invece in coscienza di Krishna, cioè in coscienza del fatto, in consapevolezza, in realizzazione del fatto che esiste una differenza fra noi corpo materiale e noi anima spirituale. Noi corpo materiale significa noi che ci identifichiamo nel corpo materiale. Questo corpo, che noi vediamo se ci guardiamo riflessi allo specchio, è soltanto un rivestimento per l'anima. Nel momento stesso in cui qualcuno pensa di essere il corpo materiale, lì cominciano i guai, perché questa vita non può che essere artificiale, no? È una vita in funzione del corpo, significa essere assoggettati al tempo, alle disgrazie, alle sofferenze. Il devoto di Krishna invece non è soggetto a queste sofferenze perché ha capito, ha realizzato di essere differente dal corpo materiale. L'anima spirituale è eterna, non muore, non invecchia e quindi non si ammala. Quindi che tipo di sofferenza può avere il devoto, il puro devoto intendo? Chi vive in coscienza spirituale è libero dalle sofferenze, è libero da ogni preoccupazione. Chiaramente questa realizzazione è graduale, non è che esiste il devoto e il non devoto e basta, esistono livelli di realizzazione spirituale diversi. E più il devoto è avanzato spiritualmente, più è felice, contento e soddisfatto della sua vita. Chiaramente all'interno di questa coscienza di Krishna ci sono molte cose, è molto ricca, è come un universo, un mondo, si sviluppano relazioni, si sviluppano idee, si sviluppano anche relazioni con persone. Krishna è una di queste persone con cui avremo relazione il giorno che avremo ritrovato la nostra originale coscienza di Krishna, appunto. Perché Krishna è la persona centrale, è la persona importante, perché è la persona a cui naturalmente possiamo rivolgere le nostre attenzioni e il nostro amore. Nel mondo spirituale non si ama solo Krishna, nel mondo spirituale si amano tutti, perché l'amore è uno dei principi fondamentali della vita spirituale, della vita trascendentale. Però Krishna è sempre al centro perché lo è per costituzione, perché lui è Dio, la persona suprema, originale, centrale, a cui tutti si riferiscono. Però all'interno di questa relazione si avranno centinaia, migliaia, milioni di altre relazioni, tutte diverse uno dall'altro, in modo che la nostra vita sia molto composita, sia piena di varietà. Coscienza di Krishna è dunque una vita meravigliosa, una vita eterna che consiglio a tutti. Per poter sviluppare questa coscienza di Krishna vi invito a venirci a trovare al nostro sito e partecipare alle discussioni, fare domande e vedrete che una nuova vita, un nuovo orizzonte si dispiegherà davanti a voi e ne sarete molto soddisfatti. Qui sotto c'è il nostro indirizzo, vi prego di venirci a trovare. A presto da Manonat Das. Avete ascoltato Manonat Prabhu, lezioni e conversazioni. Questa è Radio Isvara. Letture dai libri di Manonat Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da Radio Isvara. Cosa allora ci accomuna? Quel qualcosa che è dentro di noi, l'anima, l'essenza spirituale, che dà il movimento a tutte le cose. Il corpo e tutto ciò che lo riguarda divide quel qualcosa che è dentro di noi, che anzi siamo noi, unisce, perché è l'unica cosa che tutti, senza distinzione, possediamo. Per questo noi affermiamo che la vera felicità che noi cerchiamo, quella che mai contrasta con gli interessi degli altri, è la felicità spirituale. Quella delle cose materiali è una tragica illusione. Noi vogliamo parlare di questo qualcosa che ci unisce. La chiameremo jiva, termine che ha l'origine della parola vita. Per quanto riguarda poi la soggettività del concetto di felicità, c'è ancora un'altra cosa da vedere, cioè se una data persona, ottenendo l'oggetto dei suoi desideri, diventa felice veramente o crede solo di esserlo. Non siamo affatto convinti che la felicità sia veramente l'ottenimento del proprio desiderio, ma ammettendo che la definizione sia giusta, cosa succederebbe se fosse il proprio desiderio ad essere sbagliato? Poniamo che uno sia convinto che una data cosa lo faccia felice e invece poi viene a scoprire che era tutta un'illusione. Quante volte abbiamo visto una persona lottare per qualcosa e dopo averla raggiunta accorgersi che non era poi quella gran cosa che immaginava. Questo errore di fondo, cioè essere convinti di qualcosa e sbagliare, fa parte della natura umana. Nessuno è perfetto, anzi tutti siamo imperfetti e quindi soggetti all'errore. Discorso sul desiderio. Domanda: da dove proviene il desiderio? Risposta. Il desiderio è il prodotto della nostra emotività. L'emotività è di carattere istintiva, irrazionale. Come strumento di conoscenza è molto più affidabile la nostra intelligenza piuttosto dei nostri sentimenti. Per questo il Vedanta Sutra non dice «tenta di sentire dentro te stesso», ma raccomanda di capire, e cioè di afferrare, l'entità spirituale per mezzo della nostra intelligenza, che è il mezzo migliore che al momento abbiamo a disposizione per andare avanti nel difficile cammino. Dunque, può darsi che l'affermazione «la felicità è l'ottenimento dei nostri desideri» possa essere giusta, ma poi si deve anche stabilire di quali desideri si tratti. Ora guardiamo la cosa da un altro punto di vista. Perché l'uomo cerca la felicità? La risposta è ovvia, perché non l'ha ancora trovata. Se l'avesse trovata non la cercherebbe. Chi cerca qualcosa che ha già? Non vedete quanto l'uomo si stia dando da fare? Sembra quasi disperato nella sua frenesia. Eppure ce ne sono di cose al mondo, di comodità, di oggetti e situazioni che dovrebbero dare un qualche appagamento. Abbiamo visto da numerose e qualificate statistiche che la maggiore quantità di frustrazione, specialmente tra i giovani, si riscontrano proprio nei paesi col maggiore sviluppo economico e tecnologico. Come mai tutto ciò? Non ditemi che la conclusione è forzata, perché non ci vuole molto aggiungere alla conclusione che le cose materiali, quelle esterne a se stessi, alla nostra vera natura, non possono dare la felicità. Anche quando siamo convinti del contrario, quelle non rispecchiano i nostri veri desideri. Domanda: perché vogliamo la felicità a tutti i costi? Non potremmo accontentarci di ciò che abbiamo senza pretendere di più? Risposta: perché, come vedremo meglio più avanti, questo fa parte della nostra natura, solo che la stiamo cercando nel posto sbagliato. Allora che fare? Cominciamo a prendere la frase «noi vogliamo la felicità» e vediamo che in essa ci sono tre elementi diversi, che sono noi, il volere, la felicità. Cominciamo con il domandarci: noi, chi siamo noi che vogliamo la felicità? Come siamo fatti? Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. State ascoltando Radio Isvara. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Isvara. Hare Krishna. Il canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. È direttamente emanato dal livello spirituale, supera tutti gli strati inferiori della coscienza, cioè il sensuale, il mentale, l'intellettuale. Non c'è bisogno quindi di capire il linguaggio del mantra, né esiste nessuna necessità di speculazioni mentali o di qualsiasi altro aggiustamento intellettuale per cantare questo mantra. Sprigiona in modo automatico dal mondo spirituale ed è per questo che chiunque può prendere parte al canto e danzare in estasi, senza bisogno di nessuna qualificazione precedente. State ascoltando Radio Isvara. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buonasera cari e carissimi del Signore, benvenuti nella stanza delle letture spirituali speciali. E stiamo leggendo il libro Viaggio alla scoperta del sé di Srila Prabhupada. E questa è la foto del suo maestro spirituale che l'altro giorno non trovavo. Questo è il maestro spirituale di Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati. Quello per cui Prabhupada ha compiuto tutti i suoi sforzi nella diffusione di questa antica cultura vedica in Occidente, per una promessa appunto fatta al suo maestro spirituale, che sarebbe questo qui. Allora, siamo arrivati alla parte settima di questo testo di un'antologia di conferenze fatte, una raccolta di conferenze fatta da da Srila Prabhupada e siamo arrivati alla parte settima dove il paragrafo è prospettive su scienza e filosofia. Platone, virtù e governo. Dal 1972 e 1973, mentre viaggiava intorno al mondo, Srila Prabhupada tenne una serie di discussioni filosofiche con il suo segretario personale, Shyamasundara. Queste sessioni furono registrate e pubblicate per fornire una comprensione della filosofia, della psicologia, della scienza occidentali in riferimento agli eterni insegnamenti della letteratura vedica dell'India. Nella seguente conversazione, la sorprendente somiglianza tra lo stato ideale descritto da Platone e quello delineato nella Bhagavad Gita fanno sorgere subito una domanda. Ma non potrebbe Platone aver attinto le sue idee dagli antichi Veda dell'India? Shyamasundara. Platone pensava che la società potesse prosperare armoniosamente solo ponendo ognuno nella sua particolare categoria, secondo le sue naturali abilità. Egli pensava che ognuno dovrebbe scoprire le proprie naturali abilità e usare tali abilità al massimo grado, come amministratori, militari e artigiani. La cosa più importante, tuttavia, era che il capo di Stato non avrebbe dovuto essere una persona ordinaria o mediocre. La società, invece, dovrebbe essere guidata da un uomo molto saggio e buono, un re filosofo, oppure da un gruppo di uomini elevati e saggi. Srila Prabhupada. Sembra che questa idea sia stata presa dalla Bhagavad Gita, dove Krishna afferma che la società ideale ha quattro divisioni: i Brahmana, gli intellettuali, i Kshatriya, i guerrieri amministratori, i Vaishya, i mercanti e gli agricoltori, e i Shudra, gli operai o i manovali. Queste divisioni sono determinate dalle influenze della natura materiale. Tutti, sia nella società umana sia in quella animale, sono condizionati dalle influenze della natura materiale. Sattva-guna, Rajo-guna e Tamo-guna, cioè virtù, passione e ignoranza. Classificando scientificamente gli esseri umani secondo queste qualità, la società può diventare perfetta. Ma se noi mettiamo un uomo influenzato dall'ignoranza a fare il filosofo o mettiamo il filosofo a fare un lavoro ordinario, ne risulterà un caos completo. Nella Bhagavad Gita Krishna afferma che i Brahmana, gli uomini più intelligenti, interessati alla filosofia e alla conoscenza trascendentale, dovrebbero occupare la posizione più elevata. I Kshatriya, gli amministratori, dovrebbero agire seguendo le loro istruzioni. Gli amministratori dovrebbero vedere che tutto sia in ordine, che la legge sia rispettata e che tutti compiono il proprio dovere. Segue la categoria di coloro che producono, i Vaishya, essi si impegnano a coltivare la terra e a proteggere le mucche. Se c'è latte a sufficienza, cereali, frutta e vegetali, si può vivere molto bene. Lo Srimad Bhagavatam paragona le quattro divisioni della società a differenti parti del corpo, la testa, le braccia, l'addome e le gambe. Tutte le diverse parti del corpo cooperano per mantenere il corpo sano. Idealmente tutti i settori della società collaborano sotto la guida dei Brahmana. Se facciamo un paragone, la testa è la parte più importante del corpo perché dirige le altre parti del corpo. In modo analogo, lo stato ideale funziona sotto la guida dei Brahmana, che non hanno interessi personali nella politica o nell'amministrazione, in quanto hanno un dovere più elevato. Attualmente questo movimento per la coscienza di Krishna sta addestrando i Brahmana. Se gli amministratori accettano i nostri consigli e conducono lo Stato secondo un metodo cosciente di Krishna, ci sarà una società ideale in tutto il mondo. Shyamasundara, qual è la differenza fra la società moderna e l'ideale vedico? Srila Prabhupada, adesso c'è un'industrializzazione su vasta scala, il che significa che un uomo sarà sfruttato da un altro. Un'industria di questo genere era conosciuta nella civiltà vedica. Non era necessaria. Inoltre, nella civiltà moderna si uccidono e si mangiano animali regolarmente, il che è una barbarie. Non è nemmeno umano. Nella civiltà vedica, quando una persona non era adatta a governare, veniva deposta. Vena, per esempio, si rivelò un re non adatto a governare. L'unica cosa che gli interessava era la caccia. Naturalmente agli kshatriya è permesso cacciare, ma non secondo il proprio capriccio. Non hanno il permesso di uccidere molti uccelli e altri animali senza necessità, come faceva il re Vena e come la gente fa oggi. Così a quel tempo i brahmana intelligenti immediatamente obiettarono e lo uccisero con una maledizione. In passato i Brahman erano così potenti che potevano uccidere con una semplice maledizione. Non c'era bisogno di armi. Attualmente, comunque, poiché manca la testa del corpo sociale, tale scopo è abbandonato. La testa è molto importante e il nostro movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di creare Brahmana che possano diventare la testa della società. Allora gli amministratori saranno capaci di governare molto bene, seguendo le istruzioni dei filosofi e dei teologi, cioè sotto la guida di persone coscienti di Dio. Un brahmana cosciente di Dio non consiglierebbe mai di aprire mattatoi. Ora però i mascalzoni, che sono a capo del governo, permettono l'uccisione di animali. Quando Maharaj Parikshit vide un uomo degradato che stava per uccidere una mucca, impugnò immediatamente la sua spada e disse: «Chi sei? Perché sta cercando di uccidere questa mucca?» Lui era un vero re. Oggi uomini non qualificati occupano la posizione di presidenti e sebbene si atteggino a persone religiose, sono soltanto dei mascalzoni. Perché? Perché sotto il loro naso si uccidono migliaia di mucche, mentre loro riscuotono un buon salario. Qualsiasi capo di governo, che fosse anche solo un po' religioso, dovrebbe dare le dimissioni in segno di protesta se durante il suo governo si uccidessero le mucche, poiché la gente non sa che queste amministratori sono dei mascalzoni, soffre. Sono mascalzoni anche coloro che votano per questi mascalzoni più grandi. La visione di Platone era che il governo dovrebbe essere ideale. E l'ideale è il seguente. I santi filosofi dovrebbero essere alla testa dello Stato. I politici dovrebbero governare secondo i loro consigli, sotto la protezione dei politici. La classe agricola dovrebbe produrre tutto ciò che è necessario alla vita. E la classe operaia dovrebbe dare il suo aiuto alle tre classi. Questa è la divisione scientifica della società che Krishna sostiene nella Bhagavad Gita. Chatur Varnyam Maya Shristam Gunakarma Vibhagashaha. Io ho creato le quattro divisioni della società umana sulla base delle tre influenze della natura materiale e sulle attività ad esse collegate. Shyamasundara. Anche Platone aveva osservato le divisioni della società. Comunque egli sosteneva che ce ne fossero solo tre. Una categoria di uomini era quella dei tutori, uomini saggi che governavano la società. Un'altra categoria era quella dei guerrieri, che erano valorosi e proteggevano il resto della società, e il terzo gruppo consisteva di artigiani che compivano i loro servizi con obbedienza e lavoravano solo per soddisfare i loro desideri grossolani. Srila Prabhupada, Sì, in effetti anche questa divisione in tre gruppi esiste nella società umana. Gli uomini del primo gruppo sono influenzati dalla virtù, il secondo gruppo dalla passione e il terzo gruppo dall'ignoranza. Shyamasundara. La comprensione che Platone aveva dell'ordine sociale era fondata sulla sua osservazione che l'uomo ha una triplice forma di intelligenza, di coraggio e di desiderio. Egli disse che l'anima possiede tre qualità. Srila Prabhupada, quello è uno sbaglio. L'anima non possiede alcuna qualità materiale. L'anima è pura. Ma a causa del contatto con le differenti qualità della natura materiale si è rivestita di vari corpi. Questo movimento per la coscienza di Krishna vuole rimuovere questo vestito materiale. La nostra prima istruzione è: non sei questo corpo. Sembra che nella sua comprensione pratica Platone non identificasse l'anima con il vestito corporeo. E questo non mostra una grande intelligenza. Shyamasundara. Platone pensava che la posizione dell'uomo fosse marginale, fra materia e spirito. Beh, perciò metteva in rilievo anche lo sviluppo del corpo. Pensava che tutti avrebbero dovuto ricevere un'educazione fin da piccoli e quella parte di educazione avrebbe dovuto essere la ginnastica per rimanere in forma. Srila Prabhupada, questo significa che Platone identificava fortemente il sé con il corpo. Qual era il suo concetto di educazione? Shyamasundara, risvegliare lo studente alla sua naturale posizione, qualunque fossero i suoi naturali talenti e abilità. Srila Prabhupada, e qual è questa posizione naturale? Shyamasundara, la posizione della virtù morale. In altre parole, Platone pensava che tutti dovrebbero essere educati a lavorare nel modo più adatto a risvegliare in ognuno la propria naturale virtù morale. Srila Prabhupada, ma la virtù morale non è abbastanza, perché la semplice moralità non soddisfa l'anima. Si deve andare al di là della moralità per arrivare alla coscienza di Krishna. Naturalmente in questo mondo materiale la moralità è considerata il principio più alto, ma c'è un altro livello chiamato il livello trascendentale, Vasudeva. La perfezione più alta per l'essere umano è a tale livello e questo è confermato nello Srimad Bhagavatam. Comunque, poiché i filosofi occidentali non hanno alcuna informazione del livello Vasudeva, essi considerano l'influenza materiale della virtù la perfezione più alta e il fine della moralità. Ma in questo mondo perfino la virtù morale è inquinata dalle influenze più basse della passione e dell'ignoranza. Non si può trovare la pura virtù, Shuddha Sattva. In questo mondo materiale, infatti, la virtù è pura a livello, la virtù pura è il livello trascendentale per arrivare alla piattaforma di pura virtù, che è l'ideale. Dobbiamo sottoporci a delle austerità. Tapasa brahmacharyena shamena cha damena cha. Bisogna praticare il celibato e controllare la mente e i sensi. Se si possiede del denaro, si dovrebbe distribuire in carità. Inoltre bisogna essere molto puliti sempre. In questo modo ci si può elevare alla piattaforma della pura virtù. C'è anche un altro metodo per arrivare alla pura virtù ed è la coscienza di Krishna. Diventando coscienti di Krishna si svilupperanno automaticamente tutte le buone qualità. Automaticamente si praticherà il celibato, si controllerà la mente, i sensi, si diventa naturalmente caritatevoli. In questa era di Kali, però, la gente non può essere educata a praticare l'austerità. In passato, un brahmachari, studente celibe, si sottoponeva a un addestramento di austerità. Anche qualora discendesse da una famiglia nobile e ricca, un brahmachari diventava umile e serviva umilmente il maestro spirituale. Il brahmachari eseguiva subito l'ordine del maestro spirituale. qualunque cosa gli ordinasse. Andava di porta in porta a chiedere elemosine e portava tutto al maestro spirituale senza pretendere niente per sé. Tutto quello che riusciva a guadagnare lo dava al maestro spirituale, perché il maestro spirituale non sprecava i soldi spendendoli per la gratificazione dei sensi, ma li usava per Krishna. Questa è austerità. Poiché praticava l'austerità e seguiva le istruzioni del maestro spirituale, Brahmachari poteva controllare la sua mente e i suoi sensi. Oggi comunque questa austerità è molto difficile da seguire. Così Sri Chaitanya Mahaprabhu ha insegnato il metodo per praticare direttamente la coscienza di Krishna. E in questo caso bisogna soltanto cantare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Poi seguire i principi regolatori dati dal maestro spirituale. In questo modo è possibile elevarsi subito alla piattaforma della pura virtù. Shama Sundara. Platone pensava che lo Stato avrebbe dovuto educare i cittadini ad essere virtuosi. Il suo sistema di educazione era il seguente. Per i primi 3 anni di vita il bambino dovrebbe giocare e rinforzare il corpo. Dai 3 ai 6 anni dovrebbe imparare le storie religiose. Dai 7 ai 10 dovrebbe imparare la ginnastica. Dai 10 ai 13 dovrebbe imparare a leggere e a scrivere, dai 14 ai 16 dovrebbe dedicarsi alla musica e alla poesia, dai 16 ai 18 anni imparare la matematica. Poi, dai 18 ai 20 anni dovrebbe ricevere un addestramento militare. Poi, dai 20 ai 35 anni dovrebbe rimanere a scuola per continuare ad apprendere, mentre i guerrieri dovrebbero impegnarsi in scienze, in esercizi militari. Srila Prabhupada. Questo genere di programma educativo era per tutti o vi erano programmi diversi per diverse categorie di persone? No, questo era per tutti. Srila Prabhupada, questa non è una buona idea. Se un ragazzo è intelligente ed è incline alla teologia e alla filosofia, perché dovrebbe essere forzato a subire un addestramento militare? Platone diceva che tutti dovrebbero sottoporsi a 2 anni di disciplina militare. Srila Prabhupada, ma perché mai qualcuno dovrebbe sprecare 2 anni? Non bisognerebbe spiegare nemmeno 2 giorni, non ha senso, sono idee imperfette. Shama Sundara, Platone diceva che questo genere di educazione rivela a quale categoria appartiene una persona. L'idea che ognuno appartenesse a una particolare categoria secondo le sue qualità era giusta. Srila Prabhupada, sì, anche noi diciamo questo, ma non siamo d'accordo sul fatto che tutti debbano ricevere lo stesso genere di educazione. Il maestro spirituale dovrebbe giudicare la tendenza o la disposizione dello studente all'inizio della sua educazione. Egli dovrebbe saper vedere se un ragazzo è adatto all'addestramento militare, all'amministrazione o alla filosofia e poi dovrebbe educare pienamente secondo le sue particolari tendenze. Chi è naturalmente incline allo studio filosofico, perché dovrebbe sprecare il suo tempo con un'educazione militare? E se qualcun altro è incline a un addestramento militare, perché dovrebbe perdere tempo con altre cose? Arjuna viveva in una famiglia di kshatriya guerrieri, lui e i suoi fratelli non ricevettero mai un'educazione filosofica. Drona Acharya era il suo maestro e insegnante. E sebbene egli fosse un brahmana, insegnò il loro Dhanurveda, la scienza militare, non il Brahma Vidya. Il Brahma Vidya è una filosofia ateista. Nessuno dovrebbe essere addestrato in tutto, è uno spreco di tempo. Chi è disposto verso la produzione, gli affari o l'agricoltura dovrebbe ricevere un'educazione che riguarda tali attività. Chi è incline alla filosofia dovrebbe essere educato come filosofo, chi ha tendenze marziali dovrebbe essere addestrato come guerriero e chi ha un'abitudine ordinaria dovrebbe essere uno shudra, un operaio. Questo è affermato da Narada Muni nello Srimad Bhagavatam, Yasaya Alkanasam Proktam. Le quattro classi della società si riconoscono dai sintomi e dalle qualità. Anche Narada Muni afferma che è necessaria una selezione per poter ricevere un'educazione corrispondente alle qualifiche di ognuno. Anche se si è nati in una famiglia di Brahmana, si dovrebbe essere considerati Shudra, se tali qualità sono quelle che si manifestano. Chi è nato in una famiglia di Shudra dovrebbe essere considerato Brahmana se le qualità che manifesta sono braminiche. Il maestro spirituale dovrebbe essere abbastanza aperto da riconoscere le tendenze dello studente ed educarlo subito di conseguenza. Questa è un'educazione perfetta. Shyamasundara. Platone credeva che le tendenze naturali dello studente non si sarebbero manifestate a meno che egli non praticasse tutto. No, questo è sbagliato, perché l'anima esisteva anche prima. Ognuno ha tendenze che vengono dalla sua vita precedente. Penso che Platone non si rendesse conto della continuità dell'anima che passa di corpo in corpo. Secondo la cultura vedica, subito dopo la nascita di un bambino, gli astrologi dovrebbero calcolare la sua categoria di appartenenza. Se l'astrologo è di prima qualità, allora l'astrologia può essere di grande aiuto. Un astrologo competente può determinare quale sia la natura del bambino e come debba essere educato. Il metodo di educazione di Platone era imperfetto perché era basato su una speculazione mentale. Shyamasundara. Platone notava in che modo una particolare combinazione delle tre influenze della natura materiale agiva su ogni individuo. Srila Prabhupada, e allora perché affermare che tutti dovrebbero essere educati nello stesso modo? Shyamasundara, perché egli sosteneva che le abilità naturali di una persona non si manifestano, a meno che non sia ricevuta l'opportunità di sperimentare tutto. Egli vedeva che alcune persone ascoltavano principalmente la loro intelligenza e diceva che queste persone sono governate dalla testa. Diceva che altri hanno una natura aggressiva e che queste persone sono governate dal cuore, dalla passione. E affermava che altri sono inferiori perché vogliono soddisfare i loro desideri grossolani. Platone diceva che questi ultimi sono simili ad animali e sono guidati dal fegato. Srila Prabhupada, questa non è una descrizione perfetta. Tutti hanno un fegato, un cuore e tutti gli arti del corpo. Trovarsi sotto l'influenza della virtù, della passione o dell'ignoranza dipende dalla propria educazione e dalle qualità acquisite durante la vita precedente. Secondo il metodo vedico, è possibile essere classificati nel momento stesso in cui si nasce. Si prendono in considerazione i sintomi fisici e psicologici e generalmente è stabilito fin dalla nascita quale sia la particolare tendenza del bambino. In ogni modo, questa tendenza può cambiare secondo le circostanze e se qualcuno non adempie il ruolo insegnato, gli assegnato, gli può essere considerato appartenente ad un'altra categoria. Può darsi che si sia ricevuta un'educazione braminica nella vita precedente e può darsi che questa persona manifesti i sintomi di un brahmana in questa vita. Ma non bisognerebbe pensare che se una persona ha preso nascita in una famiglia di brahmana è automaticamente un brahmana. Una persona nata in una famiglia di brahmana potrebbe essere un sudra. Non è una questione di nascita, ma di qualità. Shyamasundara, Platone sosteneva inoltre che una persona deve qualificarsi per occupare la posizione che riveste. Il suo sistema di governo era assolutamente democratico. Egli pensava che tutti dovrebbero avere l'opportunità di occupare le diverse posizioni. In effetti, Prabhupada, noi siamo i più democratici perché diamo a tutti la possibilità di diventare brahmana di prima categoria. Il movimento per la coscienza di Krishna sta dando anche ai membri più umili della società un'opportunità per diventare brahmana, diventando coscienti di Krishna. Chandalo Pidvi Jashreshto Hari Bhakti Parayanaha. Sebbene qualcuno possa essere nato in una famiglia di Chandala, mangiatori di carne, non appena diventa cosciente di Dio, cosciente di Krishna, può essere elevato alla posizione più alta. Krishna afferma che tutti possono tornare a casa da Dio. Samo Aham Sarva Bhuteshu. Io sono equanime con tutti. Chiunque può venire da me, non ci sono ostacoli. Questo è Krishna che parla. Shyamasundara, qual è lo scopo degli ordini sociali e del governo allora? Lo scopo supremo è quello di fare in modo che tutti diventino coscienti di Krishna. Questa è la perfezione della vita e l'intera struttura sociale dovrebbe essere modellata in vista di questo obiettivo. Naturalmente non tutti possono diventare coscienti di Krishna in una vita, proprio come non tutti gli studenti di università riescano ad ottenere la laurea al primo tentativo. Ma l'idea della perfezione è quella di superare gli esami di laurea. Dopo aver superato i diversi corsi preparatori, analogamente un'istituzione come quella di questo movimento per la coscienza di Krishna dovrebbe essere mantenuta affinché alcuni possano progredire e altri raggiungere il fine supremo della vita, la coscienza di Krishna. Shyamasundara, allora l'obiettivo del governo è di aiutare tutti a diventare coscienti di Krishna? Sì, la coscienza di Krishna è il traguardo più elevato, perciò tutti dovrebbero aiutare questo movimento e avvantaggiarsene. Ognuno può venire al tempio, non importa quale sia il suo lavoro, le istruzioni sono per tutti e il prasadam è distribuito a tutti. Perciò non c'è difficoltà, tutti possono contribuire a questo movimento per la coscienza di Krishna. I brahmana possono contribuire con la loro intelligenza, gli kshatriya con la carità, i vaishya con i cereali, latte, frutta e fiori e i shudra con il loro servizio fisico. E così riuniti nello sforzo tutti possono raggiungere lo stesso fine, la coscienza di Krishna, la perfezione della vita. Qui addirittura la Prabhupada si spinge abbastanza oltre perché parla delle carenze del marxismo. Quindi finora abbiamo letto un parallelo tra quello che era l'idea della società dal punto di vista del filosofo importantissimo greco Platone e l'idea che invece appunto ha della società Srila Prabhupada. Adesso vediamo Srila Prabhupada cosa dice del marxismo. Nel seguente dialogo Srila Prabhupada prende in esame il tentativo frustrato di Marx di cercare di sradicare l'avidità della natura umana e della società. Una società senza classi è possibile soltanto quando Krishna è al centro, dice Srila Prabhupada. Bene, già iniziamo bene. Il vero cambiamento avviene quando noi diciamo niente mi appartiene, tutto appartiene a Dio, perciò la coscienza di Krishna è la rivoluzione suprema. Shyamasundara, Karl Marx contestava il fatto che i filosofi avessero solo interpretato il mondo, il punto è quello di cambiarlo. La sua filosofia è spesso chiamata materialismo dialettico perché viene dalla dialettica di George Hegel, tesi, antitesi e sintesi. Quando viene applicata alla società, la sua filosofia è conosciuta come comunismo. La sua idea era che, essendo stata la borghesia e i possidenti, per molte generazioni in competizione con il proletariato, la classe lavorativa, questo conflitto sarebbe terminato con una società comunista. In altre parole, i lavoratori avrebbero dovuto rovesciare la classe capitalista e stabilire una cosiddetta dittatura del proletariato, che alla fine sarebbe diventata una società senza classi. Srila Prabhupada, ma com'è possibile una società senza classi? Naturalmente gli uomini appartengono a differenti classi. La natura è differente dalla mia, la tua natura è differente dalla mia, così come possiamo essere artificialmente considerati allo stesso livello? Shyamasundara, la sua idea è che la natura umana o le idee sono plasmate dai mezzi di produzione, perciò tutti possono essere educati a far parte di una società senza classi. Ma allora se c'è bisogno di un addestramento? Sì. E quale sarà il centro di questo addestramento per una società senza classi? Quale sarà il motto? Il motto è: da ognuno secondo la sua abilità, ad ognuno secondo i suoi bisogni. L'idea è che tutti contribuiscono in qualche modo e ognuno otterrà ciò che necessita. Srila Prabhupada, ma ognuno contribuisce in modo diverso. Uno scienziato dà un contributo, un filosofo da un altro, la mucca dal suo latte, il cane fa la guardia, perfino gli alberi, gli uccelli e le bestie, tutti contribuiscono. Perciò, per natura, c'è già un arrangiamento reciproco fra le classi sociali. Come può esserci una società senza classi? Shyama Sundara, l'idea di Marx è che i mezzi di produzione dovrebbero essere di proprietà comune, nessuno sarebbe avvantaggiato rispetto agli altri e così una persona non potrebbe sfruttarne un'altra. Marx sta pensando in termini di profitto. Srila Prabhupada, prima di tutto bisogna sapere cos'è veramente il profitto. Gli hippie americani, per esempio, hanno già il profitto. Avevano le case migliori, i loro padri erano ricchi, avevano tutto, eppure non erano soddisfatti e rifiutarono tutto, no? Questa idea di una società senza classi è imperfetta, inoltre i comunisti non hanno creato una società senza classi. Abbiamo visto a Mosca come una povera donna lava la strada mentre il suo padrone sta comodamente seduto nella sua macchina. Quindi dov'è la società senza classi? Finché c'è una società ci sarà sempre una classificazione, ma se il punto centrale della società è uno, allora che una persona lavori in una posizione elevata o bassa non sarà importante. Il nostro corpo, per esempio, ha differenti parti, la testa, le gambe, le mani, ma tutte lavorano per lo stomaco. Shyama Sundara, in effetti si suppone che i russi avessero questa stessa idea. Essi affermano che il comune lavoratore è glorioso quanto il più grande scienziato e dirigente. Srila Prabhupada, però noi abbiamo visto a Mosca che non tutti sono soddisfatti. Un ragazzo che venne da noi era molto infelice perché in Russia ai ragazzi giovani non è permesso di uscire di notte. Shyama Sundara, le autorità russe direbbero che questo ragazzo non ha capito bene la filosofia marxista. Tale inadeguata comprensione è inevitabile. Non riusciamo mai a creare una società senza classi perché, come ho già spiegato, ognuno ha una mentalità diversa. Shyama Sundara, Marx dice che se ognuno è impegnato secondo le sue abilità in un certo tipo di produzione, se tutti lavorano per l'interesse centrale, le idee di tutti diventeranno uniformi. Per questa ragione dobbiamo scoprire il vero interesse centrale. Nella nostra associazione internazionale per la coscienza di Krishna, l'interesse centrale di tutti è realizzare Dio. Perciò qualcuno è abile a parlare, un altro a battere a macchina, un altro sta andando da uno stampatore, un altro sta lavando i piatti, ma nessuno è risentito perché tutti sono convinti che stanno servendo Krishna. Shyama Sundara, l'idea di Marx è che il centro sia lo Stato, ma lo Stato non può essere perfetto. Se lo Stato russo è perfetto, allora perché Khrushchev è stato rimosso dalla sua posizione di potere? Era stato eletto primo ministro. Perché è stato rimosso dalla sua posizione? Perché il suo comportamento non era soddisfacente secondo le aspettative del popolo. Srila Prabhupada, bene, allora dov'è la garanzia che il prossimo ministro lo sarà? Non c'è questa garanzia, la stessa cosa accadrà ripetutamente poiché il centro, Khrushchev, era imperfetto, la gente non lo faceva volentieri il proprio lavoro. La stessa cosa accade anche nei paesi non comunisti. Il governo cambia, il primo ministro viene deposto, il presidente è messo in stato di accusa. Perciò qual è la differenza fra il comunismo russo e gli altri sistemi politici? Quello che succede in altri paesi sta succedendo anche in Russia. Viene solo chiamato con un altro nome. Quando parlammo con il professor Kotovsky dell'Università di Mosca, gli dicemmo che doveva abbandonarsi a Krishna o a Lenin, ma doveva abbandonarsi. Lui rimase sconcertato di sentire ciò. Shyamasundara. Studiando la storia, Marx aveva concluso che le caratteristiche della cultura, la struttura sociale e persino i pensieri della gente sono determinati dai mezzi di produzione economica. Srila Prabhupada. Come spiega allora tutti i disordini sociali in paesi come l'America, che è così avanzata nella produzione economica? Shyamasundara. Marx dice che il capitalismo è una forma decadente di produzione economica perché è fondata sullo sfruttamento di una classe sociale da parte di un'altra. Srila Prabhupada. Ma esiste lo sfruttamento anche nei paesi comunisti. Khrushchev è stato rimosso dalla sua posizione perché stava sfruttandola per i suoi interessi, stava dando importanti posizioni governative a suo figlio e al genero. Shyamasundara. Stava deviando dalla dottrina. Srila Prabhupada. Ma poiché qualsiasi leader può deviare, come potrà esserci la perfezione? Prima di tutto la persona al centro deve essere perfetta. Allora le sue direttive saranno corrette, altrimenti se i leader sono tutti imperfetti, quale sarà l'utilità di cambiare questo o quello? La corruzione continuerà. Shyamasundara. Si presume che il leader perfetto dovrebbe essere una persona che ha praticato la filosofia di Marx senza deviare. Srila Prabhupada. Ma anche la filosofia di Marx è imperfetta. La sua proposta è per una società senza classi è inattuabile, deve esserci una classe di uomini che amministrino il governo e un'altra classe che pulisca le strade. Come può esistere una società senza classi? Perché dovrebbe uno spazzino essere soddisfatto di vedere qualcun altro occupare un posto amministrativo? Lui penserà, mi sta forzando a lavorare nella strada come spazzino, mentre lui se ne sta comodamente seduto in una sedia. Nella nostra associazione internazionale anche io occupo la posizione più alta. Sono seduto su una sedia e tu mi offri ghirlande e il miglior cibo. Perché? Perché vedi un uomo perfetto che puoi seguire. Questa mentalità deve esserci. Tutti nella società devono poter dire sì, questo è un uomo perfetto, che sieda pure in una sedia. E noi chiniamoci davanti a lui e lavoriamo come suoi servitori. Dov'è quest'uomo perfetto nei paesi comunisti? I russi affermano che Lenin è un uomo perfetto. Lenin, ma nessuno sta seguendo Lenin. L'unica perfezione di Lenin fu quella di rovesciare il governo dello zar. La gente non è felice solo se leggendo i libri di Lenin. Io ho visto bene la gente di Mosca, sono infelici. Il governo non può forzarli ad essere artificialmente felici. A meno che non ci sia al centro un uomo ideale perfetto, non può esistere una società senza classi. Shyamasundara, forse essi vedono i lavoratori e i dirigenti nello stesso modo in cui li vediamo noi, in senso assoluto, poiché tutti servono lo Stato. Lo spazzino vale l'amministratore. Srila Prabhupada, ma a meno che lo Stato dia perfetta soddisfazione alla gente, ci saranno sempre distinzioni fra classi più o meno elevate. Nello Stato russo quel senso di perfezione al centro manca. Shyamasundara, il loro obiettivo è la produzione di beni materiali per il miglioramento del benessere umano. Srila Prabhupada, ciò è inutile, la produzione economica in America non ha paragone al mondo, eppure la gente è insoddisfatta, i giovani sono confusi. Non ha senso pensare che basti aumentare la produzione perché tutti siano soddisfatti. Nessuno sarà soddisfatto. L'uomo non esiste solo allo scopo di mangiare. Ha necessità mentali, intellettuali e spirituali. In India molte persone vanno a vivere da sole nella giungla, si siedono silenziosamente e praticano lo yoga. Non hanno bisogno di niente. Come potrà una maggiore produzione soddisfarle? Se qualcuno dicesse loro, se lasci le tue pratiche di yoga ti darò 200 sacchi di riso, si metterebbero a ridere. È animalistico pensare che solo incrementando la produzione tutti saranno felici. La vera felicità non dipende né dalla produzione né dalla fame, ma dalla pace della mente. Se per esempio un bambino piange e la madre non sa perché, il bambino non smetterà solo dandogli del latte. A volte questo succede veramente. La madre non può capire perché il bambino sta piangendo e sebbene la madre offra al bambino il suo seno, lui non smette di piangere. Similmente, l'insoddisfazione della società umana non è causata unicamente da una bassa produzione. Questo non ha senso. Sono molte le cause dell'insoddisfazione. L'esempio più pratico è l'America, dove c'è sufficiente produzione di tutto. Scusate, ma sto stretta. Dove c'è sufficiente produzione di tutto, eppure i giovani diventano hippie, sono insoddisfatti, confusi, no? Non basta un incremento della produzione perché la gente diventi felice. La conoscenza di Marx è insufficiente. Forse aveva un'idea del genere perché veniva da un paese dove la gente moriva di fame. Shyamasundara, sì, adesso abbiamo visto che la produzione di beni materiali di per sé non rende la gente felice. Srila Prabhupada, perché essi non sanno che la vera felicità viene dalla comprensione spirituale. Questa comprensione è data dalla Bhagavad Gita. Dio è il beneficiario supremo ed è il proprietario di tutto. Noi non siamo i veri beneficiari, siamo tutti lavoratori. Devono esserci queste due cose, un beneficiario e un lavoratore. Nel nostro corpo, per esempio, lo stomaco è il beneficiario e tutte le altre parti lavorano. Così, quando il sistema è naturale, deve esserci sempre qualcuno che è beneficiario e qualcuno che è il lavoratore. Ciò è presente anche nel sistema capitalista. In Russia c'è sempre conflitto tra i lavoratori e i dirigenti. I lavoratori dicono, se questa è una società senza classi, perché quell'uomo se ne sta comodamente seduto e ci ordina di lavorare? I russi non hanno saputo evitare questo dilemma, in effetti non può essere evitato. Deve esserci una classe di uomini che siano i dirigenti o beneficiari e un'altra classe di uomini che siano i lavoratori. Perciò l'unico metodo per avere una società che sia veramente senza classi consiste nel trovare quel metodo con il quale sia dirigenti sia lavoratori sono ugualmente felici. Se per esempio lo stomaco ha fame e gli occhi vedono il cibo, subito il cervello dirà «Gambe, per favore andate là» e «Mani, prendete quel cibo» e «Adesso mettetelo nella bocca». Immediatamente il cibo va nello stomaco e non appena lo stomaco è soddisfatto, gli occhi sono soddisfatti, le gambe sono soddisfatte, le mani sono soddisfatte. Shyamasundara, Marx userebbe questo come un perfetto esempio di comunismo. Srila Prabhupada, egli ha trascurato di cercare il vero stomaco. Shyamasundara, il suo è lo stomaco materiale. Srila Prabhupada, ma lo stomaco materiale è sempre affamato. E questo è il problema. Non può mai essere soddisfatto. Nel movimento per la coscienza di Krishna abbiamo la sostanza per soddisfare il nostro cervello, la nostra mente e la nostra anima. Yasya prasadat bhagavat prasadaha. Se il maestro spirituale è soddisfatto, allora Krishna è soddisfatto. E se Krishna è soddisfatto, allora tutti sono soddisfatti. Per questa ragione voi state cercando di soddisfare il vostro maestro spirituale. Similmente, se i paesi comunisti potessero avere un dittatore che è soddisfatto, automaticamente dà soddisfazione a tutta la gente. Allora accetteremmo un dannatore società senza classe. Ma questo è impossibile. Una società senza classe è possibile solo quando Krishna è al centro. Per la soddisfazione di Krishna, l'intellettuale può lavorare a modo suo, il dirigente può lavorare a modo suo, il commerciante può lavorare a modo suo e l'operaio può lavorare a modo suo. Questa è veramente una società senza classe. Shyamasundara, in che modo ciò differisce dal paese comunista? Dove uomini diversi contribuiscono allo stesso obiettivo centrale e allo Stato. La differenza è che lo Stato non è perfetto, nessuno vorrà contribuire volontariamente. Si può forzare la gente a contribuire, ma nessuno lo farà volontariamente, a meno che ci sia uno Stato perfetto al centro. Le mani, le gambe e il cervello, per esempio, lavorano in perfetta armonia per la soddisfazione dello stomaco. Perché? Perché sanno, senza ombra di dubbio, che dando soddisfazione allo stomaco, tutti con loro condivideranno l'energia e saranno soddisfatti. Perciò, a meno che la gente abbia questo genere di fede nel leader del paese, non esiste la possibilità che ci sia una società senza classi. Shyamasundara, la teoria dei comunisti è che se il lavoratore contribuisce al fondo centrale, come risultato sarà soddisfatto. Sì, ma se vede qualche imperfezione al centro non lavorerà entusiasticamente perché non avrà fede che riceverà piena soddisfazione. Una perfezione da parte dello Stato non esisterà mai e perciò i lavoratori saranno sempre insoddisfatti. Shyamasundara. I propagandisti fanno gioco su questa insoddisfazione e dicono alla gente che sono gli stranieri a causarla. Se la gente fosse veramente soddisfatta, non sarebbe influenzata dagli stranieri. Se tu sei soddisfatto perché il tuo maestro spirituale è perfetto e sta guidandoti bene, sarai forse influenzato da estranei? No, Srila Prabhupada, poiché lo Stato comunista non sarà mai perfetto, non c'è possibilità di una società senza classi. Shyamasundara, Marx esamina la storia e vede che ai tempi degli antichi greci, ai tempi dei romani, nel Medioevo, c'era sempre bisogno di schiavi per la produzione. Srila Prabhupada, anche i russi stanno cercando schiavi, la classe lavorativa. Joseph Stalin, rimase al potere uccidendo tutti i suoi nemici. Uccise tanti uomini che la scorrere della storia lo elenca fra i più grandi criminali. Egli era certamente imperfetto, tuttavia riuscì a mantenere la posizione di dittatore e la gente era forzata ad obbedirgli. Shyamasundara, furono i suoi seguaci a denunciarlo. Srila Prabhupada, questo va bene. Ma anche i suoi seguaci avrebbero dovuto essere denunciati. Il punto è che in qualsiasi società deve esserci un leader, devono esserci dirigenti e devono esserci lavoratori, ma dovrebbero essere tutti così soddisfatti da dimenticare la differenza. Shyamasundara, niente invidia. Ah, niente invidia, ma tale perfezione non è possibile nel mondo materiale. Perciò le teorie di Marx sono inutili. Shyamasundara, d'altra parte anche i capitalisti rendono schiavi i loro lavoratori. Srila Prabhupada, ovunque ci siano attività materiali ci sarà imperfezione, ma se Krishna diventa il centro allora tutti i problemi si risolvono. Shyamasundara, stai dicendo che qualunque sia il modo di organizzare i mezzi di produzione ci sarà sicuramente molto sfruttamento? Srila Prabhupada, sì, certamente, certamente. Mentalità materialista significa sfruttamento. Shyamasundara, allora qual è la soluzione? Srila Prabhupada, la coscienza di Krishna. Shyamasundara, puoi spiegare meglio? Srila Prabhupada, bisogna solo mettere Krishna al centro e lavorare per lui, allora tutti saranno soddisfatti, come affermato nello Srimad Bhagavatam. Yatar yator mula nishe chanena triapyanti tat skanda buja pasha kasha. Prano paracaccia yatendriyananam tataiva sarvaha namachuteja. Se si versa l'acqua alla radice di un albero, i rami, i ramoscelli, le foglie e i fogli saranno nutriti. Similmente ognuno può essere soddisfatto. Achuteja, achuta significa Krishna e ija significa adorazione. Così, questa è la formula per una società senza classi, mettere Krishna Dio al centro e fare tutto per lui. Non ci sono classi nella nostra associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Adesso tu stai scrivendo filosofia, ma se io ti dico di lavare i piatti, lo farai immediatamente, perché qualunque cosa tu faccia stai lavorando per Krishna e per il tuo maestro spirituale. Nel mondo materiale diverse forme di lavoro hanno diverso valore, ma in coscienza di Krishna tutto è compiuto sulla piattaforma assoluta, che che tu lavi piatti o scrivi libri o adori le divinità. Il valore è lo stesso, perché stai servendo Krishna. Questa è una società senza classi. In effetti la perfetta società senza classi è Vrindavana. A Vrindavana alcuni sono pastorelli, altri sono mucche, altri sono alberi, altri sono madri, ma il centro è Krishna e tutti sono soddisfatti amando lui. Quando tutta la gente diventa cosciente di Krishna e capisce come amarlo, allora ci sarà una società senza classi. Altrimenti non è possibile. Se l'idea comunista è spiritualizzata, allora diventerà perfetta. Però, finché l'idea comunista rimane materialista, non può essere la rivoluzione finale. Essi pensano che lo Stato sia il proprietario di tutto, però lo Stato non è il vero proprietario. Il vero proprietario è Dio. Quando arriveranno a questa conclusione, allora l'idea comunista sarà perfetta. In effetti era quello che è mancato. Anche noi abbiamo una filosofia comunista. I comunisti dicono che tutto deve essere fatto per lo Stato, ma nella nostra Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna stiamo in effetti praticando il vero comunismo, facendo tutto per Krishna. Noi sappiamo che Krishna è il beneficiario supremo del risultato di tutte le attività. Bhaktaram Yajnata Pasam. La filosofia comunista, così come è praticata al presente, è vaga, ma può diventare perfetta se i comunisti accetteranno la conclusione della Bhagavad Gita, e cioè che Krishna è il proprietario supremo, il beneficiario supremo e l'amico supremo di tutti gli esseri. Allora la gente sarà felice. Adesso nessuno ha fiducia nello Stato, ma se la gente accetta Krishna come amico, allora ognuno avrà una perfetta fiducia in lui, proprio come Arjuna, che era perfettamente fiducioso in Krishna sul campo di battaglia di Kurukshetra. La grande vittoria di Arjuna e dei suoi compagni sul campo di battaglia di Kurukshetra dimostrò che la sua fiducia in Krishna era giustificata. Yatra Yogeshvara Krishno, Yatra Parto Danurdaraha, Tatra Shriri Vijayo Bhutir Durvani Tir Matir Mama. Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, ovunque si trovi Arjuna, l'arciere supremo, là senza dubbio regneranno anche opulenza, vittoria, straordinaria potenza e moralità. Questa è la mia opinione. Bhagavad Gita 18.78. Perciò se Krishna è al centro della società, allora ci sarà prosperità e sicurezza per tutti. Ben venga l'idea dei comunisti, a patto che siano pronti a rimpiazzare il cosiddetto Stato con Dio. Questa è religione. Bene, oggi abbiamo parlato del comunismo spirituale di Prabhupada e la prossima lettura sarà psicoanalisi e anima. E con questo vi saluto, cari e carissimi nel Signore, e arrivederci al prossimo incontro qui in questa stanza delle letture spirituali speciali. Arrivederci. State ascoltando Radio Isvara.